Voci in scena di Marta Cagnola. Buongiorno da Marta Cagnola, eccoci a un nuovo appuntamento con le nostre voci in scena, gli incontri coi grandi protagonisti della musica, del cinema, della cultura. Suo padre era un importante dirigente della casa editrice musicale Ricordi e con il nome d'arte di Calibi aveva scritto le parole di qualche brano di successo negli anni 50. Lui era impiegato nella Ricordi Radio Record come addetto alla pubblicizzazione delle edizioni e come suo padre aveva iniziato a scrivere i testi di qualche canzone. Il primo trionfo, la vittoria a Sanremo nel 1961 con Al di là, interpretata da Luciano Taioli e Betty Curtis. Il successo non lo abbandonerà mai. Nel 1965 l'incontro chiave con un giovane cantautore, Lucio Battisti, un incontro che ha cambiato la storia della musica pop italiana. Non chiamatelo paroliere, si definisce semplicemente autore. Per molti è un poeta, lui spiega che fa il pescatore nel lago della vita e dei ricordi, come quelle sue estati da bambino. È ovviamente e semplicemente Giulio Rapetti, cioè Mogol. Un'infanzia vissuta a Silvi, che è uno dei più bei ricordi della mia vita. Mio papà ci portava con la 500 giardinetta, quella di legno, e partivamo alle 8 di sera da Milano e lui guidava fino tutta la notte, perché allora non c'era l'autostrada e si attraversavano le città. E allora cosa succedeva? Che lui, partendo alle 8 di sera, attraversava Bologna, capito, tutte le città rimini, così. Effettivamente è un altro mondo, perché io, come ho scritto nella canzone Il viale degli oleandri, che ho dedicato a Silvio Marina, che andò a Sanremo, la canzone di Gianni Bella, quindi una canzone importante, ho scritto questa canzone dove racconto cos'era Silvio Marina. Dicevo che la stazione era un salotto. Mi ricordo la spiaggia lunga più di un miglio e le barche coi colori molto vivi sulla strada. Passava un'auto appena, un'auto all'ora, o forse meno, la stazione senza il treno era un salotto e nel mio cuore la gioia mi premeva il petto. E racconto che noi giocavamo per pallone sulla via Aurelia e quando vedevamo che arrivava un'automobile, vedevamo arriva l'auto, e allora ci fermavamo, tiravamo via le porte, che erano degli indumenti, le camicette, e passava l'auto. Quanto sono importanti i ricordi per le canzoni? Per me sono materia di lavoro i ricordi, perché io scrivo molto spesso di me stesso, racconto la mia vita, le mie sensazioni, le mie emozioni. Quindi ricordi li rivivo molto spesso nelle mie canzoni. Pescare nel lago della vita è vivo, è qualche cosa di vera, viva. La fiction è fiction, la vita è vita. E sono simili, ma sono diverse. Si provano intonazioni e movimenti. Si ripete un'ultima volta il ritornello. Betty Curtis non soffre d'emozione. Taioli sì. Del bene più prezioso ci sei tu. Scusate, ma sono un po' emozionata. Sono un debuttante e Sanremo è sempre Sanremo, vero? Al di là del sogno più ambizioso ci sei tu. Al di là delle cose più belle, al di là delle stelle, ci sei tu, al di là. Ma quando lei ripensa alla sua carriera, che sensazione le dà guardarsi indietro? Mi rendo conto che sono un uomo fortunato, prima di tutto, perché io non ho mai avuto grandi ambizioni. La cosa che è strana è che io non ho mai avuto grandi ambizioni. Voglio dire, mentre di solito i ragazzi, i giovani hanno una mira, un'ambizione. Io ho cercato sempre fin da piccolo di sopravvivere. La mia ambizione era già quella di riuscire a sopravvivere senza i miei genitori, ossia da solo, perché era un pensiero fisso questo per me da bambino. E quindi per la mia ambizione era di poter un giorno essere un impiegato, capito? Poter avere la possibilità di campare, ecco. Quanto sono importanti gli incontri per un artista? Beh, certo, gli incontri con gli artisti sono importanti, è sempre tutto importante alla vita, che poi ti porta, no? Ti può aiutare con degli incontri. Diciamo, sono diventato, da quando sono arrivato autore, poi ho lavorato con grandi professionisti, l'incontro con Lucio Battisti, strano, perché poi non si presentava come un grande professionista, ma come un ragazzo dilettante che poi si presentò con due canzoni di nessuna importanza, perché lui aveva scritto due canzoni, parole e musica, ed ebbe un commento negativo da parte mia, che poi lui mi disse: sono d'accordo anch'io, che non sono granché. E fu questa sua umiltà che mi spinse così, ma più che per consolarlo che per altro, di lavorare con lui, per provare a lavorare così nel tempo libero, senza nessun traguardo. Amico caro, se c'è qualcosa che non va, se ho chiesto troppo, tu dammi pure la metà. È un affare, sai, basta ricordare di non amare, no, di non amare. Abbiamo citato, è inevitabile, Lucio Battisti, però c'è un amico al quale lei è particolarmente legato ed è Gianni Bella. Gianni Bella, ho scritto un'opera con lui dove lui ha fatto il miracolo. Lui ha scritto un'opera straordinaria, di valore internazionale, che viene giudicata ed è stata giudicata da tutti i melomani, compresi 73 melomani del circolo Parma Lirica, considerato il pubblico più severo del mondo, che ha applaudito per 4 minuti in piedi, urlando. La musica l'ha scritta Gianni Bella, che ha fatto un capolavoro, un vero capolavoro. Pensi che strano il destino, il giorno dopo, ci ho messo 2 anni a lavorare, 700 giorni, e dopo 700 giorni abbiamo brindato al termine dell'opera, al fatto di averla finita, e il giorno dopo gli è venuto questo ictus che gli ha tolto la possibilità di parlare, di comunicare. Il mio amico, che forse avrebbe voluto cantarla lui, pensate, l'ha scritta una decina di giorni prima di essere colpito da un ictus, e quindi non può né cantare né suonare, almeno per il momento. È già passato un po' di tempo da questo brutto evento. Le parole le ha messe Mogol, sono parole importanti, era anche difficile per me, ci ho pensato molto prima di farlo, poi ho deciso di sì, perché in una serata come questa io sono contento di prestare la mia voce al mio grande amico Gianni Bella. Questo mondo tende la sua mano, forse cerca Dio, cerca aiuto a Dio, e mi rivedo da bambino nei ruscelli con quell'acqua trasparente, come adesso è la mia mente. Il suo impegno con i giovani, perché lei ha deciso di aprire una scuola? Perché ho capito, proprio perché sono un autore, e ho capito come stava andando il mondo andava verso il profitto, e ho capito che la cultura popolare, che è la grande cultura, no? La grande cultura, perché anche la cultura d'élite arriva dalla cultura popolare, non è che è una cosa diversa. sta diventando cultura popolare, ossia scrivere per accontentare la gente, scrivere sul livello della gente, non scrivere in libertà per portare semmai il livello medio, alzarlo. E questo è un po' la fine della cultura. Allora io ho pensato che il mio dovere nei confronti della gente che mi ha voluto bene, che mi ha premiato, fosse quella di creare una grande scuola per artisti, con tutto quello che ho guadagnato nella vita, più quello che guadagnerò, perché è una cittadella. Noi guardi, abbiamo avuto questa fortuna di avere una lieva che, perché si è iscritta lei a un corso così con un autore dei nostri ragazzi, e la lieva si chiamava Risa e l'allievo si chiamava Giuseppe Anastasi, che ha scritto Sincerità. Quindi, come vede, quando c'è la possibilità di avere della gente preparata, nascono anche i successi veri. In Emilia è stato deciso di assegnare un premio ai migliori parolieri, i nascosti artefici delle strofette che canticchiamo ogni giorno, vere colonne della musica leggera italiana. Giusto premiare quanti rifuggono dalla banalità per seguire una vena poetica sincera. Contorno di Livezzi e divi della canzone come Peppino di Capri, in cerca appunto di nuove rime alla parola cuore. E come logico, in una serata di canzoni d'amore, contorno anche di belle ragazze. La loro grazia ha preparato l'atmosfera per una manifestazione strettamente imparentata con la poesia, sia pure quella più spicciola. Il presidente dell'ente provinciale del turismo di Reggio Emilia ha quindi proceduto alla consegna dei premi. Al fiorentino Franco Migliacci, che fu partner di Modugno e che scoprì Gianni Morandi. A Giulio Rapetti, in arte Mogol, milanese trentenne che ha vinto 3 Festival di Sanremo. La mia vita è chiaramente educato ad impegnarmi per cercare di che qualcuno possa contare su di me, per cercare di far bene, ecco, quello ce l'ho, questa spinta. Però quello che arriva me lo regala il destino, nel senso che non è che io ho programmato un punto di arrivo. Vado avanti, cammino con buona lena e vado avanti. Il nostro protagonista di oggi era Mogol. Ci ritroviamo domani alla stessa ora per un nuovo appuntamento con le nostre voci in scena. Da Marta Cagnola, ancora l'augurio di una buona giornata.